fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazze, noi siamo in diretta con Risto Radio Convento. Io sono in compagnia di Isabella, Claudia, Chiara, Alice, Marta, Sara, Veronica, Chiara. Bene, io sono in bellissima compagnia di bellissime ragazze. Cosa state festeggiando, ragazze, di bello? Il mio 30° compleanno. Augurissimi. Grazie. E ci sono tante amiche che, come mi avete detto prima, cosa siete? Le tacchine. Tacchine, però io adesso sono curiosa di sapere perché tacchine. È diverso. Beh, Dio, ragazze, perché tacchine? A caso, perché facciamo le tacchine. Una sera. Allora, facciamo spiegare dalla festeggiata. Ma dai, in verità, perché siamo casiniste, di conseguenza il verso delle tacchine è arrivato poi. Ok. Dopo tutto il casino, perché fondamentalmente. Perché fa gruppo, sì. È un richiamo. Però io adesso, scusami se ti disturbo. Allora, io ti devo chiedere una cosa. Mi hanno detto uno scoop. Io adesso sono curiosa, chi dei due? Vai. No, chi dei due? In verità era uno dei due, ma l'uno dei due mi ha piantato stasera, quindi direi che il 30° lo festeggiamo alla grande. Brava Isa! Noi andiamo. Quindi direi che applaudiamo per questo. E andiamo momento. Avanti. Io piango perché mi dispiace, perché è una persona a cui tenevo tanto. Vai tranquilla che si chiude una porta, ma si apre un portone. Si chiude una porta, si apre un portone. Bene! E noi siamo qui per festeggiare e divertirci. Uno era lui, ma lui è il mio migliore amico, lo conosciamo amici da 10 anni, quindi non c'era niente di più. Lui, mio amico da 8, è arrivato dopo, però l'altro era mio amico da 1 e mezzo, nonché... Ho capito la situazione. Nonché è andato a puttane, però va bene lo stesso. Quindi... Ci siamo. Quindi non importa, l'importante è arrivare ai 30, divertirsi, andare avanti. E... sempre a testa alta, perché si va avanti. A testa alta e... l'importante è avere sempre gli amici. Allora facciamo una cosa. Facciamo uscire delle lacrime, ma di emozione belle. Perché c'è la ragazza qui, come ti chiami, scusami? Claudia è l'unica che in questo momento ha le cuffie più vicine al microfono. Gli facciamo fare una dedica per il suo compleanno. Cantata, vai, canzone, dai, facci una canzone. Brava con le parole, con le rime, con le... No, Elisa, Claudia, vai. Sparala, vai. Dai, ci sei. Una canzone per la Isa che viene in mente. Se mi suggeriscono che devi cantare perché sei brava, quindi vai. Facciamola emozionare. No, dai, pensaci tu. Per ribuccia. Dai. Che a noi qui al convento ci piace emozionarci. È una cosa proprio che abbiamo. Dai, Clo, siamo tutte con te. Dai, fichi fichi che non sbagli. A te che sei. No, non la tengo io per piacere. Ma dai, che volte davanti a noi. Ma Claudia, prendi l'iniziativa perché qua non va bene niente. Siamo nella stessa lacrima. Come un sole e una stella, siamo luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Sono nuovi giorni, ascoltami. No, ragazze, ma voi avete questo talento più o meno nascosto? Ma io vi dico che in questo momento io vi saluto e vi faccio andare a cantare di lì, perché non può restare chiusa qui dentro, va bene? Io vi ringrazio e buona serata. Grazie a te, ciao!